Salve a tutti, sono Stefania e sono qui in compagnia di Radio Big World, che mi dà l'opportunità di esprimere le mie opinioni, quello che ho chiamato il popolo di Barabba. Ma perché il popolo di Barabba? Ecco, vediamo un po' se riesco a farlo capire, perché insomma è un po' confusa anche nella mia mente. Il popolo di Barabba, nel mio immaginario, ho sempre visto quei film, non so, l'avrete visto anche Ben-Hur, per esempio, ecco, che mi viene in mente. Si vede il popolo di Barabba che esulta e sceglie l'assassino degli assassini rispetto a un Gesù dimesso, a un Gesù. Il popolo di Barabba messo su dal potere religioso di allora, che ciecamente sceglie la persona che rappresenta il male, insomma, più assoluto. Ecco. Oggi il popolo di Barabba, cioè colui che non vuol vedere, colui che non vuole aprire gli occhi di fronte ad una realtà che sta prendendo campo, un popolo che si adagia su quello che ha, inconsapevole che quello che ha lo potrebbe perdere da un momento all'altro, un popolo che sta guardando il suo orticello. Mi viene da dire anche, oltre che parlare il popolo di Barabba, il popolo del chi se ne frega. Ecco, perché molte sono le persone con le quali io, cioè, interagisco quotidianamente, eccetera, e a un certo punto mi dico: ma chi se ne frega? Ecco, il chi se ne frega credo che oggi non vada usato, perché ne va della nostra vita, ne va del nostro futuro, ne va della vita dei nostri figli, dei nostri nipoti, e quindi non va più bene. Credo che ogni cittadino oggi abbia la responsabilità di aprire un pochino gli occhi, ecco, di formarsi e di informarsi senza accettare, subire passivamente tutto quello che ci viene regalato dai media, da internet, da guardate quello che sta succedendo nella rete con queste fake news che non ne possiamo più. Però è una realtà pericolosissima, perché il popolo di Barabba è in crescita, e questo chi ha un po' di sensibilità dovrebbe fare qualcosa per questo. Io non so che cosa, quindi aiutatemi anche voi per far sì che qualcuno possa aprire leggermente gli occhi di fronte a questi avvenimenti. Io mi ricordo qualche tempo fa, cioè tanto per farvi capire che le persone che gestiscono la cosa pubblica alcune volte, cioè, si rivolgono al popolo di Barabba con modificando a secondo di qual è della tipologia di quel popolo lì, modificando i loro atteggiamenti, le loro parole. Poi nella sostanza vediamo che anche loro fanno parte posso dirlo, di quella massa, ma lo dico. Ecco, allora, tempo fa ero ad un convegno in Toscana, non vi dirò mai dove, però faceva freddo, ero vicino alla porta della sala, e vicino alla porta della sala c'era un gruppetto di persone che adoravano proprio in maniera quasi vergognosa un assessore al welfare, alle politiche sociali. E l'adoravano dicendo che aveva fatto un bellissimo discorso, dicendo qui, quindi mi sembrava di essere in un pollaio, perdonatemi. A un certo punto, siccome la porta era ancora aperta, gli dissi gentilmente, queste sono le testuali parole: mi scusi, potrebbe chiudere la porta, per favore? Grazie. Ma lo dissi così, come l'avrei detto a mio marito, come l'avrei detto, perché erano lì vicini alla porta. Questa mi guarda e mi fa: non l'ho mica aperta io. Ecco, la mia domanda era: ma come? E tu sei un assessore alle politiche sociali? Ma che messaggio mi hai dato in questo momento? Sei falsa, sei finta, non puoi fare l'assessore alle politiche sociali. Questo era quello, l'indignazione che io ho sentito di fronte a una risposta del genere. Qualcuno mi ha detto: sono stata esagerata. No, non sono stata esagerata, perché quella persona ha in mano la gestione del paese in cui è assessore. quindi le scelte, quindi le relazioni con i cittadini. Quindi non sono stata esagerata. Lei avrebbe dovuto rispondermi, almeno io, assessore alle politiche sociali, avrei detto: oh sì, sicuramente, mi scusi, non l'avevo vista. Ecco, io avrei risposto così. Altro esempio, e perdonatemi, ma io ho sempre questi esempi perché è da lì che poi partono le mie riflessioni, da quello che vivo giorno giorno. Altro esempio, mi trovavo in un gruppo di persone politiche, che insomma di politici, dovevo fare un discorso. Io ho sempre avuto terrore di fare dei discorsi davanti a un po', ma terrore veramente davanti anche a tre persone. E mi fu detto da un politico di allora, non qui in Val d'Arno, fu detto: ma cosa ti preoccupi di fare? Te ti metti lì e parli. Quello che dici, dici, tanto la gente mica capisce. Anche questa è una cosa che veramente mi è rimasta impressa, cioè il politico che parla e la gente non capisce. Ma è vero, perché se noi guardiamo quello che succede a livello nazionale, quando apriamo le televisioni, io sono appassionata di politica, vi dico di questi dibattiti, mi diverte sentirli, mi diverte, cioè sono interessata a capire che tipo di persone ci stanno gestendo, ecco, diciamo così. E si capisce bene che loro parlano, ma spesso non sanno quello che dicono, parlano per spot, parlano per far arrivare al popolo di Barabba, per l'appunto, quegli input, quelle informazioni che in quel momento ritengono che il popolo di Barabba li accetti. E questo è veramente molto triste ed è indigna veramente, ci dovrebbe indignare. Mi piacerebbe avere una classe politica bella, una classe politica pulita, una classe politica che veramente sa essere attenta al cittadino, con un occhio di riguardo verso il più debole, ma anche con l'occhio di riguardo verso il più forte, affinché questo non prenda il sopravvento. Cioè un politico un attimino più umano, ecco, e non robotizzato e mediocre come siamo abituati a vederli negli ultimi tempi. La politica è una cosa alta, è l'arte di organizzare una città e di stare vicino al cittadino. E tutti noi siamo, credo, chiamati a stare attenti a queste dinamiche, a non cascare nella trappola del chi vende il prodotto migliore. Qui non si vende niente, qui c'è di mezzo la vita di tutti noi. Grazie e alla prossima puntata. Vi ringrazio tanto, un saluto a tutti.